c'era secondo l'altro chi vuole comprare l'anno, la chiena canelo, e devo venire oggi. Je connais pas celle-là, on la connaît pas. Così. Non, Di là, E si te allé dans un ristorante, on va vedere le saucisson, e se sono regalé, meglio vedere che erano, per danni. Ma viene come un mattino l'antropo di Grena, ma il patto io come fa. oui, come può? Allora io sono andato a un ristorante che si dice Grena. Non mi messo la Grena, mi sa ci sono, non puoi essere lì. E poi io non sono messa. Andando a... Se ti ha tutto il mondo, per dire dove cartello. Se ti combinavo e io venivo a planire la terra, tu sai, io la posseggio tutto sotto terra, nella terra che te la vuole, mi pare che ci sono. Allora per lì, è un anno di Italia, è un anno di Pigliarotti, di Massimo Sifone, allora io la tua brutta, la tua mangia. I siete fu, allora per lì siete ancora, una feina più grande. Io capendo un canero e un vale gonfè. Allora gli passei a tour, prendo la canella da qui, e gli si rompe sempre, se passi se sarà gonfè, e poi. Io passavo un buon uomo là, questo è lo mero di prima. E come fatto là? Non vuole, tanto lei non vuole comprare settano. E lì, quando ne vuole me, sì, allora lo mero lì si mette a soffrire. Allora dicono, questo non vuole fare. Se trovo male le vite, fate soffrire meno là un tu, se non mi notro buccio. Allora io non mi chiedo di tornare la canela. Come era a conflitto. Se non mi trovo.